Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Oggi abbiamo una puntata che ci farà viaggiare nel tempo, nelle note, ma anche dentro noi stessi. Con un ospite molto speciale, ripercorreremo infatti una carriera artistica lunga, decenni, ricca di tantissime cose. Questo è il viaggio nel tempo che vi ho promesso, ma lo faremo usando un filtro molto particolare, quello della musica. È incredibile come saper strimpellare uno strumento possa aiutare nei momenti difficili. Va da sé che non cura malattie gravi e non fa tornare indietro persone che hanno deciso di non amare più. Ma un momento di colloquio con la propria vita può essere salutare, se fatto attraverso la musica, che si suona con l'impressione che sia la musica migliore del mondo. Forse in quel momento, proprio per lo scopo alla quale è destinata, lo è davvero. In quel periodo mi ci sono rifugiato sovente, come in un'isola a proda il naufrago, recuperando e superando come una rivalsa sul passato e sul presente certe mie frustrazioni giovanili. Quello che avete appena ascoltato è un breve estratto della novità editoriale con cui ritorna sulla scena letteraria e sonora Giorgio Faletti, che è qui in studio con me. Giorgio! Eccomi. Da quando ti conosco, ho desiderato averti in studio e ora è ora. Il mio momento. E gioco con queste due parole, da quando a ora, che è il titolo del tuo nuovo libro, un libro molto speciale, perché tu, volendo scrivere una tua biografia, hai deciso di raccontarla come se fosse una lunga opera musicale. Insomma, invece che usare le 21 lettere dell'alfabeto, hai deciso di ricorrere un po' alle 7 note. Ma guarda, devo dire che nel momento in cui mi trovo a presentare questo lavoro faccio sempre un po' di fatica, perché in realtà parlare di autobiografia letteraria è un pochino riduttivo, perché in realtà io ho steso questi ricordi con la chiave con cui si stende un romanzo, anzi per certi versi lo è, sì. Solo che non ha la connotazione della fiction, cioè non è una cosa inventata, ma è un romanzo, fra virgolette, di una vita, e sono sicuro, anzi, che alcune cose che io ho riportato in questo romanzo, che in questo, vedi, è freudiano, mi viene istintivo, in questo libro, sono fatti che mi sono successi, che appartengono ai miei ricordi. E sono sicuro, se lo mettessi in un romanzo la gente lo butta via dicendo che stupidaggine, nella vita reale non succedono queste cose, perché ho assistito a episodi, sono stato protagonista di episodi che sono stati di una comicità esilarante, da lacrime agli occhi, e momenti in cui la malinconia, la commozione sono tale tante che mi hanno in qualche modo provocato le stesse lacrime che il riso mi ha provocato in altre situazioni. Quando all'inizio di puntata vi ho detto che il viaggio sarebbe stato anche dentro noi stessi, non l'ho fatta a caso perché qui a fianco a me c'è Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, anche lui scrittore, che ha letto con me il libro di Giorgio, l'abbiamo letto in stanze separate, in case separate, ha ascoltato tutti i brani dei due CD, che sono due CD che straordinari, che contengono proprio delle canzoni che noi oggi ascolteremo proprio per fare questo viaggio musicale, che è un viaggio anche dentro e soprattutto alle nostre emozioni e alla nostra storia. Alberto, tu ci aiuterai a cogliere le sfumature psicologiche, ma soprattutto ci aiuterai a fare un viaggio interiore da condividere un po' con i nostri ascoltatori. Ma direi che la suggestione molto bella di questo lavoro di Giorgio Faletti è stata quella di scegliere una zona della propria vita solitamente rimasta probabilmente più in ombra, e attraverso quella zona provare a raccontare, a riraccontare un po' tutta la vicenda, tutto il proprio percorso, un po' come avere un giardino segreto. A me piace molto l'immagine del giardino segreto da proporre a volte anche ai pazienti, cioè ci deve essere un piccolo spazio realmente tuo, totalmente tuo, dove probabilmente non sei così visibile agli altri, ma dove succede così tanto di te stesso lì dentro, e poi quel giardino, quando fiorisce, diventa visibile a tutti. Sicuramente la cosa ha un grosso senso, perché mi sono reso conto che gli artisti, adesso dico artisti in senso tecnico, non necessariamente qualitativo, hanno sempre la tendenza a portare fuori quella che è l'immagine pubblica di se stesso, di se stessi, e di conseguenza in questo caso mi ha fatto piacere ripercorrere questo percorso alla luce di quelli che sono stati i riflessi della mia carriera sull'ambiente sugli ambienti vari che mi hanno accompagnato. Teniamo presente che sono nato nel 1950 in una città di provincia, alla periferia di questa città di provincia, un posto, un mondo a parte, dove in realtà c'erano tali e tante creatività che in qualche modo è stato un peccato che non ci fosse la possibilità culturale per queste persone, per portarla a imbrigliare e farla diventare qualcosa di esplicito. Ma io mi sono sentito raccontare delle storie che non avevano nulla a invidiare a quelle di Pavese, solo che sono state raccontate in un modo, nell'unico modo possibile, illetterato, a volte sgrammaticato, ma con un fascino incredibile. Voglio ricordarvi il nostro numero verde per intervenire in diretta, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Giorgio Faletti rimane con noi fino al termine della puntata, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Giorgio, il tuo rapporto con la musica è molto particolare, tu nasci comico, eppure la prima volta che con la musica ti sei, no, hai lavorato, hai fatto le cose sul serio, altro che ridere, no? Il tuo pezzo è arrivato proprio come un pugno nello stomaco dei tuoi ascoltatori. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor Un brano rivoluzionario, Giorgio, quando lo hai portato a Sanremo, rivoluzionario per il canone del festival, ma rivoluzionario anche rispetto a chi eri tu in quel momento, nell'immaginario collettivo dei tuoi fan e di chi ti seguiva abitualmente, anche in televisione. Beh, devo dire che questo brano è stato una delle linee di spartiacque che hanno in diverse fasi segnato la mia vita, e lì ho avuto la percezione che forse potevo esprimermi con delle chiavi diverse che non fossero limitate semplicemente all'umorismo, che è in ogni caso una grandissima forma di espressione. Ne parli anche nel tuo libro, sì, cioè, sembra. Io credo di averlo scritto in un romanzo precedente, credo che una risata sia uno dei più grossi regali che un uomo possa fare a un altro uomo. Sì. E d'altronde la comicità e la musica hanno in comune proprio questo, che hanno la possibilità di muoverti fisicamente. La risata ti fa passare da uno stato di inerzia a quello di movimento, appunto, sì, della risata. La musica invece, quando c'è qualcosa che ti entra dentro, che ti emoziona, proprio ti sarà successo a tutti. Io però mi sento proprio i peli delle braccia che si alzano e che viene la pelle d'oca. E di conseguenza sono due forme di comunicazione apparentemente inaccostabili, ma che hanno dei punti in comune. E poi c'è un'altra considerazione da fare, che io credo che dalla sensibilità nascono le piccole rivoluzioni. Allora, la rivoluzione nei confronti della malinconia che è provocata dalla sensibilità, a volte, per quando uno ha la possibilità di filtrare il mondo attraverso questa lente dell'umorismo, a volte ha la possibilità di esorcizzare la malinconia con la battuta, con l'ironia, con l'autoironia, molto importante. E altre volte c'è il desiderio, la volontà di raccontarla attraverso una canzone, attraverso uno scritto un po' più riflessivo. Però va sottolineato che le canzoni sono figlie di momenti diversi, nel senso che c'è la canzone scritta sotto un impulso, dico fra virgolette, negativo, cioè un momento della propria vita in cui ci sono si è circondati si interiorizzano delle cose che sono da buttare via, da buttare fuori. Allora forse il modo per buttarle fuori nel modo più giusto è quello di raccontarle scrivendo una canzone. Ci sono altri momenti che sono di serenità, di allegria, di complicità a volte, e di conseguenza ogni canzone è un fatto a sé. Io poi devo dire, ho sempre scritto canzoni, e con questo concludo questo mio interminabile intervento, e ho sempre scritto canzoni sulla spinta di un'idea. Non sono mai stato uno che, a cui è stato chiesto di scrivere una canzone per. A volte mi è stato chiesto: hai fra le canzoni che ha scritto una canzone che vada bene per. Però io ho sempre scritto sulla spinta di qualcosa che mi veniva da dentro, senza andare a ipotizzare se questa canzone avrebbe un giorno potuto diventare un fatto commerciale, diciamo. Alberto, ci sono tanti spunti che ci fornisce Giorgio, il parallelo che fa tra la musica e il riso, ad esempio, come terapia, anche un modo per raccontarsi. Proprio lavorando, ragionando un po' sulla sua canzone, sul Signor Tenente, e poi ragionare non è un verbo giusto quando pensi a una canzone. Credo che questa sia una canzone davvero perfetta, perché ti fa vedere il dentro e il fuori, tu hai l'immagine reale di che cosa sta succedendo lì in quella strada assolata, e intanto hai questo flusso di pensieri che arriva costante attraverso il microfono e che arriva al suo tenente, e dentro a quel flusso di parole tu hai proprio la visione del passato, del presente e del futuro di questa persona che sta facendo quel mestiere lì in quel momento, con tutto quello che gli si muove intorno. E trovo che, secondo me, un'altra cosa davvero azzeccata in questa canzone è che c'è un incedere rutilante che richiama moltissimo. Pensa che bello, il incedere del rutilante. Cuore. C'è proprio come il battito del cuore che accompagna le parole, ed è lì dove secondo me si crea una sintesi incredibile tra la scena raccontata, le emozioni sentite, i pensieri. Direi proprio è la cornice perfetta attraverso la quale poi ti passano quei significati che avresti bisogno di un romanzo per poterli raccontare. Ed ecco perché la canzone è così evocativa e così. Ma un piccolo appunto di carattere tecnico che poi non è ragionato neanche quello. Quando scrivo il testo di una canzone, sovente mi succede di muovere le parole come una macchina da presa. C'è un brano all'interno di questi due CD che si intitola Corriera Stravagante, dove io ho immaginato che in un posto ipotetico, lì ci sono stati diversi influssi che sono raccontati nel libro. E ho immaginato che sia un posto in cui dei ragazzi chiusi in un riformatorio, nel tentativo di recuperarli, a questi ragazzi venga insegnato a suonare. E mi è piaciuto descrivere questi ragazzi che saltuariamente escono da questo riformatorio e vanno a suonare in giro per una città sconosciuta, e i movimenti di macchina sono rappresentati dalla loro soggettiva, dalla soggettiva della gente che li vede passare e sfilare, con un'amarezza di fondo che è quella della frattura del muro che delimita le due cose. Sono dei ragazzi in realtà in sedicesimo, ma sono in prigione, mentre di fuori c'è un mondo che per il momento è e resta un sogno che si può identificare nello specifico con la libertà. Nel campo sterminato del possibile, ognuno è una frase, ognuno è una canzone, ognuno è un romanzo. Giorgio, mi è rimasta molto impressa questa frase con cui tu chiudi anche, riportata in quarta di copertina, ma chiudi anche il tuo libro, cambiando, perché dici nel campo sterminato dell'affetto. Ma mi piace, perché credo che noi possiamo usarla anche come una sorta del gioco del se fosse terapeutico. Inviterei gli ascoltatori a provarci, perché noi qua proviamo sempre a sperimentarci. Forse ne guadagnerà anche un po' l'autostima, Alberto. Cioè, possiamo usare questa frase di Giorgio un po' per raccontarci? Ma io credo che poi questo sia proprio il lavoro degli artisti, cioè trovare una canzone o trovare un romanzo dove tu in qualche modo ti vedi allo specchio e trovi che quelle parole che magari non riuscivi a dire a te stesso sono esattamente lì dentro, sistemate in un modo che immediatamente ti fa percepire chi sei in quel momento, in quel passaggio della tua vita, sia straordinario. Per cui chiedere agli ascoltatori di provare a raccontarci la loro frase, la loro canzone, il loro romanzo che in questo momento racconta esattamente in che passaggio sono della loro vita, secondo me è un esercizio valido. Ecco. Potete raccontarlo a noi, potete soprattutto raccontarlo oggi a Giorgio, prima dei mercati. Giorgio, che mi dici? Ma io ti dico, questa frase è contenuta all'interno del romanzo e si riferisce alle persone che hanno popolato la mia vita, nello specifico la mia infanzia, che erano persone talmente strane. Le nonne straordinarie. Le nonne straordinarie. E parlo al plurale perché... Perché... Tutte e due hanno avuto nonna, un peso. Una nonna, adesso non voglio star lì a raccontare un aneddoto che ho già raccontato centinaia di volte, ma che ogni volta mi fa illanguidire di tenerezza. Mia nonna, che è convinta che io sarei finito male nella vita, e difatti ho dedicato a lei l'epigrafe del libro, che ho messo la frase che lei continuava a ripetermi: tu ci farai finire sul giornale, sicuramente lei intendeva non per motivi nobili. E questa nonna, pur di trovare una collocazione, una salvezza per questo nipote scapestrato, si era convinta che io fossi uno dei Pooh. E allora, come dice, questo richiamo della musica. E un'altra cosa invece che sempre ha a che fare con la musica, e per questo umorismo che involontario che in qualche modo aleggiava in casa mia, la mia nonna materna, un giorno mentre stavo leggendo un giornale e c'erano le foto di Dalla vendite De Gregori, gigantesche, sopra un titolo a caratteri cubitali con scritto i più seguiti in Italia, e mia nonna da sopra la mia spalla ha detto: speriamo che li prendano. In piemontese, speruma che i ciapu. Speruma che i ciapu. E questa la dice lunga sull'ambiente in cui sono vissuto. E poi è nato Giorgio. 800 24 00 24, mercati, meteo, poi di nuovo insieme qui con Giorgio Faletti. Aspettiamo le vostre chiamate. Essere e benessere. Siamo tornati insieme a noi oggi, Giorgio Faletti, da quando a ora. Perché si dice, Giorgio, sempre l'ultima fatica letteraria? Io non ho mai capito. E perché? Perché è una fatica. Perché è una fatica, cioè scrivere. Moravia diceva, quando un giorno gli hanno chiesto che cosa serviva per scrivere un romanzo, lui ha risposto: i muscoli. E questa e quindi è, per penso te fosse... una tripla fatica, perché scrivi poi due CD. Sì, ma in realtà io sono una di quelle persone privilegiate, prima di tutto perché scrivo in un periodo in cui, mi riferisco ancora a Moravia, lui probabilmente scriveva con la macchina da scrivere, cioè quella che bisognava pestare sui tasti, di conseguenza veramente i muscoli ci volevano. Io scrivo col computer, per cui sono un briciolo facilitato, però devo dire sono una di quelle persone privilegiate che si svegliano al mattino e lavorano, pur con tutte le difficoltà che ogni lavoro comporta, però non ho la sensazione di lavorare. Questo è un grossissimo privilegio, però credetemi, lo dico per quelli che in qualche modo avessero delle velleità, il momento del successo è proprio veramente solo la puntina dell'iceberg. Sotto c'è tutto un lavoro duro momenti creativi oscuri, frustrati, a volte frustranti, e di conseguenza non è semplice mai avere successo in nessun campo, però ogni successo ha alle spalle un lavoro oscuro. Vi ricordo l'invito che vi ha proposto Alberto oggi, abbiamo preso spunto da una frase del libro di Giorgio Faletti: nel campo sterminato del possibile, ognuno una frase, ognuno una canzone, ognuno un romanzo. Proviamo un po' a misurarci su questo. Intanto saluto Loredana che ci chiama da Genova all'800 24 00 24. Buongiorno Loredana. Buongiorno Nicoletta. Ciao Loredana. Buongiorno Giorgio Faletti. Posso chiedere a Giorgio Faletti se ci possiamo dare del tu, visto che siamo coetanei? Rigorosamente sì, ma anche se non lo fossimo, il tu fa parte di una forma di collaborazione che esiste fra ogni comunicatore e quelli che lo seguono. Grazie, per me è un onore sentirti, sono molto felice e volevo dire che ti ho sempre seguito da quando ci facevi ridere. Poi, siccome sono una divoratrice di libri, ho letto tutti i tuoi gialli. E quindi... Ah, sei tu allora? Come? sei tu allora? Mi ha detto che c'era uno che l'aveva letti tutti. mi fa piacere riconoscerti. Sì, adesso divorerò anche questo, senz'altro, perché tra l'altro a me piacciono molto anche i libri dove ci sono le vite vissute. Purtroppo non... Cioè, io non sono abile a scrivere, se potessi scrivere qualcosa sulla mia vita probabilmente lo farei anche un romanzo, visto che la mia infanzia non è stata granché felice e adesso invece che ho 62 anni sono molto, come posso dire, serena e faccio tante questo cose. E questo è un risultato. Caspita. Un bel punto d'arrivo. Loredana, grazie per essere intervenuta. Hai un'altra domanda da fare a Giorgio, oltre ai complimenti? Complimenti, e poi volevo chiedergli se ha intenzione ancora di scrivere altri libri di questo genere. Ma guarda, io credo che ho voluto in qualche modo regalarmi questa cosa perché... La musica è una cosa per me indispensabile e ho creduto, dato che molta gente mi sentiva le mie canzoni, quelle che io avevo nei cassetti, mi diceva ma perché non, e alla fine ho deciso di metterle su vinile e raccontare questa e pubblicare questo lavoro. Sicuramente tornerò a scrivere dei romanzi perché anche quello fa parte della mia vita, però in questo momento sono molto legato a questo progetto che, udite udite, diventerà anche un tour, perché nel mio devo dire che questa è una mia debolezza. È una tua debolezza? No, nel senso che mentre scrivevo in questi 10-12 anni in cui ho passato il mio tempo a scrivere dei romanzi, ho fatto anche dei film, ma più che altro una cosa episodica, l'idea di non salire mai più su un palcoscenico un pochino mi agghiacciava. Ecco. E allora questa è un'occasione, combinazione. Ho fatto un esordio televisivo presentando una canzone che è stata sentita da un impresario, il quale mi ha fatto una proposta che di quelle... Non dico che non si possono rifiutare, di quelle che non si vogliono rifiutare, che è diverso. E di conseguenza stiamo organizzando questo tour estivo che farò con un piacere infinito se le condizioni che ci siamo in qualche modo... Vanno, ma guarda che qua chi passa da essere benessere è subito fortunato... E quindi sai che portiamo buono radiofonico. Ma questo guarda che me lo dicono in tantissimi. Io penso che mi inventerò un lavoro. Alberto. Ma io credo che tra l'altro salire su un palco con questo progetto per Giorgio sarà una sfida da una parte, ma anche una bella realizzazione. Ci sono delle canzoni, lui per ogni canzone che ha nel CD ha poi un corrispondente capitolo dentro al libro, e quindi poter unire le parole alla musica che poi farà ascoltare al suo pubblico credo che sia una combinazione perfetta. Tra l'altro c'è una canzone bellissima, si intitola Nudi. Uno ascolta quella canzone e dice è meravigliosa, poi legge il capitolo corrispondente dentro il libro e gli si accende gli si apre una storia, entra proprio dentro a un film. Entriamo allora. È una notte che passa e va via in un momento, e ha due bocche di labbra cucite, non strappa nemmeno un lamento. C'è una notte di luna, quante cose da fare, come se volassimo, come se valessimo. E adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi torniamo subito dopo insieme in compagnia di Giorgio Faletti. A tra poco. Essere benessere. Vi si è aperto un film, come suggeriva Alberto, nell'ascoltare Nudi, una canzone che è contenuta nel CD Ora della nuova, diciamola pure, fatica letteraria e sonora e musicale di Giorgio Faletti. Giorgio, dietro questa canzone? Ma dietro questa canzone c'è un percorso strano, anche qui da quando Ora, perché è una storia, racconta di parte da una delusione amorosa che io ho avuto moltissimi anni fa, che mi ha molto provato all'epoca. È una cosa un pochino, cioè, come dire, non c'è nessuna colpa in una persona che decide di non amare più, nel senso è fisiologico, è successo anche a me, però c'è stata una fine di questa storia che con una connotazione un po' meschina che mi ha molto ferito. Però la cosa è rimasta lì in incubazione e tanti anni dopo, mettendo ordine fra le mie cose, ho trovato questa foto dove c'era questa persona e in qualche modo, forse maturando quell'emozione, analizzandola, ho scritto questa canzone Nudi, dove ci sono due persone che sono fisicamente nudi perché sono in una stanza, forse hanno fatto l'amore, forse lo faranno, però sostanzialmente sono nudi di fronte alla loro incapacità di provare qualcosa, a costruire qualcosa di più importante, di più sostanziale e soprattutto di più corroborante. Ecco, una canzone alla quale sono molto legato perché c'è proprio un pezzo della mia vita. In tutte le canzoni, però in questa c'è un... Alberto, perché questo? Ma io direi che potremmo proprio estendere agli ascoltatori poi il consiglio che ha appena raccontato Giorgio, cioè questo aprire l'album delle fotografie della propria vita, andare a ripescarne una dove c'è un passaggio, uno di quei passaggi che per noi è stato molto significativo, spesso purtroppo nel dolore o nella fatica, e attraverso il rientrare in quella storia, in quell'immagine, poterla guardare a distanza e trasformarla in un'altra cosa, per esempio in una storia. E questa è una storia che nel momento in cui la puoi scrivere alla distanza ti permette di rielaborare tutto quello che è rimasto, ecco, perché un ci po' vuole sospeso. Un periodo di distanza, Giorgio, in questa storia ha funzionato così e... al momento non ti è venuto, al momento non mi è venuta, ma credimi, sarebbe stato meglio, no? No, in determinate situazioni scrivere qualcosa sotto l'impulso immediato richiama un po' alla memoria quello che succedeva negli anni 70, quando certi pittori dipingevano dei quadri sotto l'influsso dell'LSD, mm-hmm, che mentre erano in viaggio sembrava di aver dipinto l'opera della loro vita, invece quando finiva l'effetto si rendevano conto che sostanzialmente non era così. Difatti, un esempio, pochi autori di canzoni sono riusciti a sottrarsi all'idea di scrivere una canzone per la nascita di un figlio, che è un'emozione strepitosa, un'emozione enorme, però non sempre un'emozione così forte diventa anche una canzone altrettanto bella, ecco. Alberto. Credo che sia proprio questo, cioè quando sei dentro una cosa ne sei proprio immerso e conseguentemente quella cosa è dentro o fuori di te, ti avvolge e a volte proprio ti costringe dentro, ma quella cosa che è così totalmente tua può non diventare una cosa condivisibile o facilmente comprensibile dall'altro. Riguardarla a distanza, questo è spesso anche il processo dello psicoterapeuta, cioè tu puoi riguardare a distanza un evento che ti ha fatto diventare quello che sei, quindi che ha lasciato profondamente un segno dentro di te, ma mentre in quel momento ci eri dentro, a distanza di tempo lo puoi guardare da fuori e soprattutto lo puoi guardare con quello che ora sei e che quella cosa ti ha fatto diventare, e tenere insieme tutti i pezzi, secondo me, è proprio un percorso mirabile. C'è una cosa, che è un processo che io ho fatto in questo album, è un processo per conto terzi. Cioè, questa operazione, un giorno stavo in coda a prendere un gelato, no? E c'erano due ragazzine di fianco a me, carine, che stavano parlando e stavano raccontandosi, una sta raccontando all'altra una delusione d'amore, e Ed era così accorata in questa cosa, perché come tutti sanno, e chi non lo ricorda glielo ricordo io, per gli adolescenti una delusione d'amore è una cosa, è la fine della vita, capito? Cioè, un adolescente è una persona per la quale veramente le parole per sempre e mai più hanno un senso. Allora io sentivo questa cosa e per conto di questa ragazza, che ho immaginato un giorno avrebbe ridimensionato questa sua sofferenza giovanile, sono andato a casa, subito, immediatamente ho scritto una canzone che si intitola Angelina. Angelina, con cui io vorrei concludere un po' questa nostra chiacchierata insieme a Giorgio Faletti, perché il tempo è tiranno, si dice sempre così, ma è proprio vero. Angelina è il racconto proprio di questa ragazza rotta dalle pene d'amore che è diventata una canzone, giusto? Sì, sì, no, ma più che altro è una canzone di complicità. Cioè, nel senso dire, come dire, da zio, non da fratello maggiore. Ma sentitela anche voi. Grazie a Giorgio Faletti, grazie ad Alberto Pellai, a voi che ci avete seguito, godetevi Angelina. A domani. Che mal di denti stanotte Angelina, che mal d'amore. Ma va tranquilla che non ha preso soltanto te. Che siamo tutti traditi, tutti feriti, tutti pesti sotto gli occhiali, ad aspettare dall'alto il frullo di un paio d'ali, ad aspettare che dietro spunti un bel paio d'ali. Radio 24, la passione si sente.